Cittadini di Tebe, guardatemi. Questo è il mio ultimo cammino. Questa è l'ultima volta che contemplo la luce del sole. Non la vedrò mai più. Ade, che mi conduce viva sulla riva dell'Acheronte senza riti di nozze, non ha per me parole di conforto. Nessuno per me intonerà canti nuziali. Sarò la sposa di Acheronte. Senza amici, senza compianto, senza canti nuziali mi trascinano verso la strada che mi è destinata. Il mio destino è senza lacrime. Nessun amico mi rimpiangerà. Tomba, stanza nuziale, prigione sotterranea. Io vado incontro ai miei cari. La maggior parte di loro è già stata accolta fra i morti. Ora giungo io, prima di aver compiuto l'intera mia vita. Nutro in me tuttavia questa speranza di giungere gradita a mio padre, a mia madre e a mio fratello, perché io con le mie mani ho lavato i vostri corpi. E ora Polinice, guarda cosa ricevo per aver seppellito il tuo cadavere. Eppure per coloro che hanno mente saggia io ti ho reso giusto onore. Se si fosse trattato dei miei figli, se avessi visto il corpo di mio marito imputridire sull'asfalto, non avrei affrontato questa lotta sfidando le regole della città, sfidando Creonte. Parlo così perché se mi muore un marito, posso averne un altro. Se perdo un figlio, posso averne un altro. Ma siccome mio padre e mia madre sono morti, non potrò mai più avere un altro fratello. Ecco perché ho scelto di onorarti, Polinice, e per questo Creonte mi ritiene colpevole di una tremenda audacia. Mi ha presa, mi trascina così, senza letto nuziale, senza inni di nozze. Non ho avuto marito, non ho cresciuto figli. Abbandonata da tutti, scendo ora alle dimore dei morti. Ma quale giustizia divina ho trasgredito? Mi hanno giudicata empia per un atto di pietà. Se per gli dèi tutto questo è giusto, allora attraverso il dolore riconoscerò la mia colpa. Ma se i colpevoli sono loro, se i colpevoli sono loro, spero che soffrano quanto ho sofferto io contro ogni giustizia.